contrariamente al buon Akame e a molti, io non seguo gli avvenimenti sportivi. Per solito vengo a sapere della loro esistenza da discorsi uditi sui mezzi pubblici o dalla propaganda di quei prodotti che in un modo o nell'altro si ritengono attinenti a quel tipo di evento. Il caso più tipico di pubblicità in funzione di un avvenimento sportivo mi pare quello dei videoregistratori e dei televisori. Chi vi ha badato allora ricorderà certo che negli ultimi mesi prima dei mondiali di Italia 90 quelli dei videoregistratori e dei televisori erano i manifesti di gran lunga più numerosi tra quelli in circolazione, e ancora pochi mesi fa una nuova serie di manifesti inneggianti ai progressi compiuti da una certa casa produttrice nella definizione dell'immagine televisiva avvisavano, sia pure in modo indiretto, l'avvenimento, l'imminenza di quello che si definisce un nuovo grande evento sportivo. L'ultimo in ordine di apparizione di questi manifesti è di pochi giorni fa e mi pare particolarmente interessante, non tanto perché al piede riporta il simbolo dei cinque cerchi e la scritta Olympic Games, svelando anche ad uno come me di quale grande evento si tratti, quanto per il contenuto del manifesto stesso. Dice: abbiamo semplificato la registrazione. Sotto questa scritta l'immagine di un bimbo dell'età di 5-6 mesi al massimo che, con lo sguardo tenero e assente caratteristico di quell'età, regge un telecomando al suo confronto enorme in cui si possono chiaramente vedere 6 soli tasti. Sotto, ancora una scritta un po' meno grande, dice: i videoregistratori con penna ottica. Segue l'immagine di un videoregistratore e finalmente la firma Panasonic in grande, Worldwide Sponsor 1992 Olympic Games. Il messaggio è tutto sommato chiaramente affidato all'immagine, ed è proprio questa che mi suscita le maggiori perplessità, perché vuole evidentemente spiegare che l'uso del videoregistratore sarebbe possibile anche ad un infante che, incapace perfino di reggersi in piedi, oltre che di esprimere con parole le sue esigenze più elementari, non troverebbe comunque difficoltà nell'uso di tale apparecchio. Certo, questa immagine è mediata dalla citazione di una penna ottica che, qualunque cosa essa sia, presuppone almeno un'infarinatura delle tecniche di videoregistrazione, ma è un po' poco per togliere del tutto l'impressione che nell'eventuale cliente le facoltà di razionalizzare e seguire concatenazioni logiche che superino le possibilità offerte dai 6 tasti siano un di più non indispensabile. Il valore su cui il manifesto verte è in fondo tutto concentrato in quella semplificazione del titolo. Semplificazione che presuppone un complesso da ridurre alla nostra portata di acquirenti bambini, teneri, belli e amati dal produttore proprio come conviene dei bimbi in tenera età. È un vero peccato che in questo periodo, tra elezione del Presidente della Repubblica e formazione di un nuovo governo, il nostro ceto politico non abbia tempo di badare a questioni così marginali, perché in condizioni normali per quel manifesto la Panasonic avrebbe certamente ricevuto qualche pubblico riconoscimento, magari anche la tessera ad honorem della Democrazia Cristiana. Because